Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Angelino Alfano Agrigentino, 43 anni, sposato con due figli, un vero enfant prodige della politica italiana. Ha 25 anni, è presidente del gruppo di Forza Italia alla regione siciliana. Avvocato, giornalista, è introdotto dal re di Sicilia di allora Gianfranco Micichè alla corte di Silvio Berlusconi. Candidato sindaco di Agrigento, rinuncia e diventa deputato. Prima assistente, poi pupillo di Berlusconi nel 2008, è il più giovane ministro di giustizia della storia della Repubblica. Nel 2011 lascia l'incarico, si dedica al partito. Nel 2013 diventa vicepresidente del Consiglio e ministro del governo Letta, poi ministro dell'interno del governo Renzi. Intanto abbandona Berlusconi e fonda il nuovo centrodestra, del quale è nominato presidente per acclamazione. Ha scritto un libro, La mafia uccide d'estate. Minacciato di morte, ieri, chiudendo la convention del suo partito, ha detto: abbiamo approvato le più grandi leggi di contrasto alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, e sulla forza di questi successi noi diciamo andranghetisti, camorristi, mafiosi di non votare per noi, non votateci, perché ogni voto che darete a noi sarà speso contro di voi. Onorevole Alfano, ma chi chiede il voto ai mafiosi? Poco importa chiederlo, c'è il rischio che te lo diano. Ah, va bene, meglio... E dunque, siccome non siamo nell'urna, meglio chiarirsi prima. Ogni voto a noi sarà usato contro di loro. Senta, pensava anche a Dell'Utri quanto ha detto questa frase, eh? Guardi, su Dell'Utri ho già detto poche parole di natura istituzionale, dicendo quel che si era verificato a Beirut. Insomma, lo avete fa. Arrestato a Beirut? Non ho nient'altro da aggiungere e non aggiungerò nient'altro su questa vicenda. Vabbè, lo avete arrestato a Beirut in un albergo a 5 stelle, comunque soddisfatto dell'operazione di polizia? Guardi, non ho nient'altro da aggiungere sulla materia, ogni parola in più sarebbe mal spesa. Ma era in fuga o si stava curando? Non lo sa. No comment. No comment. E riuscirà a farlo estradare o no? È una questione, è una questione sulla quale non è opportuno aggiungere altre parole. Senta, lei dice che non sente Berlusconi da Capodanno, visto il trattamento che mi riserva, ha detto. Ma che trattamento le riserva? No, diciamo che i suoi giornali aggrediscono il nuovo centrodestra con una pervicacia e con una violenza che non meritiamo, perché noi non abbiamo mai mancato di rispetto e di riguardo alla persona del presidente Berlusconi. Senta, ma non l'ha sentito neanche dopo l'affidamento ai servizi sociali? L'ho sentito prima, l'ho sentito la sera prima e gli ho ribadito il mio affetto, la mia amicizia personale, e quella non verrà mai meno. Senta, ma pensa che potrà fare la campagna elettorale? Io me lo auguro di cuore. Cioè, glielo auguro, insomma. Me lo auguro da cittadino italiano, perché la voce del presidente Berlusconi noi ci auguriamo che possa essere sentita da tutti gli italiani. Senta, adesso da voi arriva anche il portavoce di Berlusconi, Paolo Buonaiuto, un colpo grosso? E Paolo Buonaiuto è una persona per bene. Ed è anche uno che, se fa questo gesto, manifesta grande coraggio. Senta, onorevole Alfano, il suo slogan adesso è col nuovo centrodestra per ricostruire il paese. Ma chi l'ha distrutto il paese? La crisi economica in Italia è durata più di quanto sono durate le precedenti due guerre mondiali. Mi sembra sufficiente a radere al suolo tanta speranza. Dobbiamo batterci contro la rassegnazione e questa è già una missione. Ma lei dov'era mentre il paese cadeva? Ero a fare le leggi antimafia, ero a riformare la giustizia civile, ero a non candidare nel PDL tante persone che il tempo ha dimostrato che era bene che non candidassimo. Senta, onorevole Alfano, lei era il delfino di Berlusconi, poi un giorno Berlusconi ha detto: Alfano non ha il quid per fare il leader. È finita tutta lì? No, con il presidente Berlusconi ho deciso di separare la mia strada quando ho capito che tra l'Italia e Forza Italia lui sceglieva Forza Italia mentre io preferivo l'Italia, perché tra la patria e il partito ho preferito la patria. Voleva fare cadere il governo, precipitando il nostro paese in una crisi al buio e senza prospettive. Senta, ma le ha fatto male quella frase, comunque, al di là di tutto? Non mi ha messo buon umore, ma ho continuato perché ne sapevo l'infondatezza e poi lui l'ha sempre smentita. Senta, è iniziata lì comunque la sua riflessione sugli errori fatti da Forza Italia in questi 20 anni di cui parla? No, non faccio l'analisi su questi 20 anni. Questi 20 anni contengono delle cose straordinariamente positive. In 20 anni ci sono omissioni e errori, ma anche tante straordinarie e positive cose. È l'errore per l'Italia. Più grave, secondo lei, che ha fatto Forza Italia? Nascere nella sua versione bis per fare cadere un governo, mentre nel 94 era io amo questo paese. Senta, onorevole Alfano, dopo Casini e Fini, comunque, adesso è lei ad abbandonare Berlusconi. Ha sbagliato Berlusconi con tutti e tre? Io non ho abbandonato nessuno, ho separato la strada e ho detto che eravamo pronti a tornare alleati. Poi se succede troppo spesso che chi è in evidenza rispetto all'opinione pubblica ha un'idea forte, separa la strada, vuol dire che c'è qualcosa da chiedersi, vuol dire che forse all'interno del centrodestra non c'è la possibilità di stare facilmente insieme. Ma quindi lei è disposto a tornare alleato? Il tempo è lontano, intanto facciamo l'Europa e dimostriamo quanto valiamo. Senta, ma cosa ha imparato dall'avventura politica di Fini? Ha imparato qualcosa? No, non c'era nulla da imparare. E non ha paura di fare la stessa fine? Storie, biografie, percorsi e prospettive totalmente diverse. Ma il tradimento è una categoria della politica oppure no? Io non la conosco e per quanto io abbia sofferto per la decisione, ho messo innanzi a tutti e a tutto il bene dell'Italia, il rispetto delle persone e la dignità. Quindi quando mai non si rispetta l'Italia e quando non c'è considerazione del riguardo nei confronti delle persone, allora è bene fare scelte diverse. Senta, quindi no. Onorevole Alfano, il ruolo del nuovo centrodestra nel governo, lo dice lei, è quello di far scendere le tasse. Quali? Noi abbiamo già fatto la prima scelta, quella sulle persone e anche sulle persone fisiche, anche l'IRAP, sulle imprese. Questa è già una prima botta molto significativa e positiva. E poi vogliamo essere gli avvocati del ceto medio, noi vogliamo difendere imprese, quel ceto medio italiano che ha retto di fronte alla crisi ma si è un parecchio impoverito. Senta, in realtà però la Confedilizia, per esempio, si sono accorti che la tassazione sulla casa è aumentata dell'88% dal 2007 a oggi. Beh, come difesa dalle tasse non è male. Guardi, dal 2007 oggi sono passati 7 anni, sì, e anche 4 o 5 governi. A fine dello scorso anno, 2013, Confedilizia diede alla stampa di Torino, e credo proprio di ricordar bene, la notizia che le tasse erano diminuite e questo fece esultare il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Quindi si confonde Confedilizia, diciamo che i dati sono controversi. Quello che ha impoverito di più l'Italia, l'ha impaurita e l'ha anche incattivita è stata la durata di una crisi che è nata a livello internazionale, si è scaricata sull'Europa e poi si è concentrata più sui paesi del sud dell'Europa, a cominciare dall'Italia. Senta, nel governo Letta, lei però era il garante, nato quasi su quello, della fine dell'IMU sulla prima casa. Adesso con Tari, Tasi, Tarsu, eccetera, insomma si capisce anche poco. Non è finita bene, questo è sicuro, ognuno se ne accorge. Perché? 5 miliardi sono stati tolti. Da qualche parte si è provato a far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. Il saldo durante il governo Letta è comunque attivo, numeri alla mano. Senta, però le partite IVA, per esempio, sembrano dimenticate da tutti, anche da voi. Noi proporremo di estendere il beneficio fiscale delle persone fisiche anche alle partite IVA che guadagnino con lo stesso reddito degli altri, cioè meno di 25.000 euro e che non abbiano dipendenti. Pensiamo a tanti giovani che hanno aperto partita IVA e che non hanno dipendenti e guadagnano meno di 25.000 euro. Senta, adesso Renzi metterà 80 euro, così dice, nelle tasche degli italiani. Ci riuscirà per la busta paga di maggio, come ha promesso? Lo faremo nel Consiglio dei Ministri del giorno 18. E quindi sì? Sì. E si rilanciano così i consumi, lei pensa? È una buona strada. Se mettiamo 10 miliardi in più nelle tasche degli italiani è altamente probabile che una parte di questi vengano spesi e una parte finisca in gettito per le casse dello Stato e una parte in reddito per commercianti e artigiani e coloro i quali beneficeranno degli acquisti con questi 10 miliardi. È una parte in pagamento dei debiti. Si sono accumulati nel frattempo, le famiglie. Delle famiglie e altri anche ad avere altri risparmi perché hanno intaccato i propri risparmi. Senta, il ministro Madia, per l'occupazione giovanile, per snellire la burocrazia e tagliare gli stipendi più alti dei dirigenti, propone di prepensionare i vecchi dirigenti e di assumere un giovane per concorso ogni 3 pensionati. È la strada giusta, secondo lei? Certamente c'è da decidere se noi vogliamo o non vogliamo i migliori giovani italiani nella pubblica amministrazione. Questa è una strada che permette a tanti giovani in gamba di entrare nella pubblica amministrazione. Che il rapporto 1-3 sia quello corretto bisognerà studiarlo, ma comunque la strada è una strada assolutamente obbligata, positiva. Ma con i tagli degli stipendi della pubblica amministrazione ha un'idea di cosa si può risparmiare? Ancora i conti non sono fatti? I conti li presenterà il Ministero dell'Economia. Noi di certo abbiamo in testa il fatto che se mettiamo un po' di giovani nella pubblica amministrazione la ammoderniamo. Senta, ma i tagli riguarderanno tutti, anche i magistrati? Ma guardi, io penso che sulla questione dei magistrati ci siano dei vincoli particolari. E l'altra questione che dico è che sui magistrati non occorra, anzi non si debba fare taglio di personale. Io da ministro della giustizia ho parlavo dei tagli di stipendi. No, ma perché se ne è parlato anche. Io da ministro della giustizia ho fatto 1000 assunzioni, che equivale al 10% e più dell'ammontare totale dei dipendenti in magistratura, e quindi questo fu un segnale per dire che noi non magistrati... Non mi ha risposto sugli stipendi. No, le ho risposto all'inizio, ho detto che ci sono anche vincoli di natura costituzionale, per cui non è non è facile intervenire sullo stipendio dei magistrati. Quindi no. Onorevole Alfano, ma un moderato che ha sempre votato per Berlusconi, finora, e oggi non volesse più farlo, perché dovrebbe votare per lei, non per Renzi, che è moderato e nuovo? Ma innanzitutto Renzi è il leader di un partito di sinistra che entra nel Partito Socialista Europeo e ha ricette nel suo programma anche che di sono sinistra. Diverse dalle sue. Se non le realizza in questa fase, molto si deve al fatto che invece di essere alleato con Vendola, come sarebbe naturale, è alleato con noi, e noi abbiamo chiesto e ottenuto diminuzione delle tasse, smontaggio delle parti peggiori della legge Fornero e anche taglio alla spesa pubblica per diminuire le tasse. Se le sembra poco? No, non lo so, quello vabbè, dice okay, lei, lo se dice, è poco no, vediamo chi vota cosa dirà. Senta, Renzi lo scorso anno diceva con Alfano non ho nulla in comune, adesso invece siete al governo insieme e avete scoperto cose in comune. Questo programma è una cosa in comune. E poi abbiamo ma in comune che spesso? Ci sentiamo molto frequentemente, tanti sms, una comunicazione molto fluida. Più moderna. Renzi e Berlusconi si assomigliano, lei li conosce adesso tutti e due? Ma non credo no, proprio. Niente. No, non credo proprio, due letterature, no, le biografie sì, ma caratterialmente, voglio dire. No, ma anche caratterialmente, no. Non trovo tanti punti in comune. Senta, intanto loro hanno fatto l'accordo sulle riforme, andrà in porto secondo lei? Secondo me sì, e non l'hanno fatto mica solo loro, l'abbiamo fatto tutti quelli che credono nel cambiamento. E poi in comune con Renzi, noi in questo momento abbiamo noi e loro, io e lui, lui ed io abbiamo che entrambi soprattutto ci giochiamo il nostro destino, il nostro futuro, perché se si fallisce questa occasione non credo avremo la partita di riserva. Senta, mi dice una qualità di Renzi che l'ha stupita? Ma una ottima energia, noi lo aiutiamo ad indirizzarla bene. No, parlavo di lui, è un difetto suo? Ma non, niente difetti. No, ma non è che non ha difetti, è così il giochino di individuare pregi e difetti. Vabbè, non mi piace. Parlo di quelli che servono al paese. Senta, ma la discontinuità tra Renzi e Letta qual è? Ma probabilmente Renzi ha avuto la forza di dire alcuni no, soprattutto al sindacato. Lei dice adesso ci vuole un centrodestra che elegga la classe dirigente con le primarie, da subito? Io credo che la prima occasione sarà per la leadership del centrodestra del futuro, quindi non subito, perché non ci sono subito elezioni. Per le elezioni. Senta, tra le elezioni europee e le regionali, l'ha detto anche lei, lei si gioca tutto. Cosa si aspetta di ottenere dall'alleanza con Casini? Noi siamo, dopo tutti i guasti del centrodestra, i primi che uniscono. E quindi questa unione è l'embrione, ma sarà un embrione grosso, dell'aggregazione dei moderati, di quella forza alternativa alla sinistra che si candiderà nel futuro a guidare il paese. Per noi facciamo il primo passo. Per adesso c'è riuscito solo Berlusconi, no, voi siete il secondo tentativo. No, il presidente Berlusconi è riuscito prima a unire e poi a dividere. Prima Forza Italia era la calamita, ora mi pare che si sia smagnetizzata. Ma e lei non si allerà con Forza Italia dove serve nelle elezioni? Non c'è l'occasione alle elezioni europee. Alle elezioni locali alcune volte è capitato. Capiterà Alcune volte sta capitando in questi giorni. In altre occasioni, vedasi il Piemonte, si sta dimostrando come Forza Italia è incapace ormai di unire. Senta, ma qual è l'obiettivo elettorale minimo per lei? È quello di entrare al Parlamento europeo e entrarci senza patemi. Formigoni però, dice, se non avete il 4% cade il governo. E noi crediamo che è una eventualità che non esiste. Lo credo che lo pensi. Senta, intanto da ministro degli interni lei deve affrontare il problema della nuova ondata di sbarchi che è prevista col bel tempo. Si urla, si invoca l'Europa, cambia poco. Perché? Perché noi Italia e noi Europa paghiamo il conto dei disordini e dell'instabilità politica in Nord Africa. Ecco perché l'Europa deve metterci del suo. No, deve mettercelo, però intanto non ce lo mette, perché dopo la tragedia di Lampedusa lei ha fatto la voce grossa in Europa, non è che ha ottenuto molto. Per la prima volta è stata riconosciuta quella frontiera mediterranea che noi riconosciamo come l'elemento essenziale della futura Europa. In tutti i documenti è stata fatta una task force, ci hanno dato pochi soldi, è stato il primo passo, perché tra il nord nord e il sud dell'Europa c'è una, spesso una sfida in atto e senta, noi pensiamo di vincerla. Però nei primi tre mesi del 2014 sono stati 11.000 sbarchi, cioè 8 volte di più del 2013. E in linea è sempre con che quella diciamo, che fu l'emergenza Nord Africa vera sotto la gestione Maroni, c'è stato il record italiano assoluto di sbarchi con oltre 60.000 nel 2011. Ma le sembra normale che l'Agenzia per l'Accoglienza Europea Frontex abbia sede a Varsavia e non so, a Palermo? Non mi sembra normale, chiederemo più risorse per Frontex, che è l'agenzia che deve presidiare la frontiera, e anche di mettere la sede in Italia e in un paese del sud del Mediterraneo. Senta, ma poco le elezioni perché europee... Perché l'Italia e il suo sud sono sud del Mediterraneo. Non c'è nessun dubbio. Senta, sud dell'Europa. Le elezioni europee saranno un banco di prova definitivo per il futuro del continente, questo è sicuro. Può continuare un'Europa così solo guida tedesca? No, ed è per questo che l'area mediterranea dell'Europa deve farsi valere. Ecco. E poi anche dal punto di vista come dire, dei conti, non possono fare loro in Europa i fenomeni nei nostri confronti. Che senso ha tenere Strasburgo e Bruxelles? Comincino a chiudere una delle due sedi. Senta, Renzi dice dobbiamo ridiscutere questa Europa, ma intanto mettere in ordine l'Italia. Vuol dire che la politica dell'austerità non ha alternative, però. Vuol dire che se dobbiamo fare la voce grossa in Europa, dobbiamo portare a casa quelle riforme che ci rendano davvero credibili. E quella sul mercato del lavoro che abbiamo chiesto e ottenuto noi con un decreto è una di quelle che può far fare la differenza. Però austerità e sviluppo non c'è mai riuscito nessuno a tenerli insieme. Ma perché sono parole d'ordine? In realtà lo sviluppo non necessita dell'austerità. Lo sviluppo necessita di conti in ordine, noi dobbiamo tenere i conti in ordine e fare delle riforme, dopodiché liberare le energie italiane sburocratizzando e mandando a casa una serie di istituzioni, una serie di public utilities, di municipalizzate e di burocrazie che rompono le scatole alla gente che vuole investire. Ma in concreto il governo Renzi deve battere i pugni sul tavolo in Europa? Il governo Renzi deve dire noi non siamo qui per prendere delle lezioni, noi abbiamo fatto le riforme, sappiamo dove va l'Italia, l'Italia in porto la conduciamo noi al porto dello sviluppo, al porto della crescita, vi consegniamo riforme e conti in ordine, dunque non dateci lezioni. Ecco, ma intanto considerare per esempio i fondi europei fuori dal calcolo del 3%. È assolutamente corretto e penso che sia anche razionale e conveniente per l'Italia e per l'Europa. Credo che sia una decisione che può essere anche accettata in Europa. Senta, ma le elezioni europee saranno anche un referendum pro o contro l'euro? Sicuramente, è così? In parte lo sarà e io credo che alla fine vincerà chi è in grado di dire a noi questa Europa così com'è non piace, la vogliamo cambiare, ma ricordiamoci che se da 60 anni quelli della mia generazione sono nato nel 1970, quelli della mia generazione hanno conosciuto solo la pace e non la guerra, questa pace è un nome e si chiama Europa, ma così com'è non va, non vogliamo che si occupi del diametro delle angurie. Ecco, ma allora molti, anche autorevolmente, penso al professor Guarino, pensano che immaginare un euro mediterraneo potrebbe essere una strada contro lo strapotere tedesco. Lo strapotere tedesco si combatte se noi abbiamo la forza e la dignità di andare in Europa e dire guardate, questa è una ricetta alternativa. E la ricetta alternativa è dire cara Germania, l'inflazione che tu temi non c'è, qui siamo in recessione, quindi dai più poteri, appunto, addirittura dai più poteri alla banca centrale per consentire a un bravissimo governatore come Mario Draghi di fare quello che ha fatto il governatore della Fed e quelli del Giappone. Senta, cosa ci sarà di sicuro nell'agenda del semestre della presidenza italiana in Europa? Qualcosa su cui voi vi impegnate a portare a casa risultati? Immigrazione. Ecco. Ci sono centinaia di migliaia di persone sull'altra sponda dell'Africa che ci aspetta la comunità internazionale ad andare lì ad impedire che partano e a organizzare l'accoglienza lì in Africa. È questo il tema. Senta, lei è stato ministro della giustizia, la riforma della giustizia, diciamo così, è una priorità del governo Renzi? A giugno ci occuperemo di giustizia e prima ancora faremo anche delle altre norme prima di giugno. Ecco, Renzi dice, l'avviso, l'ha detto pubblicamente, l'avviso di garanzia non è una condanna ma una tutela per l'indagato, lo dice il codice, però è un cambio di linea radicale per la sinistra. È l'accettazione di un principio costituzionale di fronte al quale la sinistra di una volta faceva finta di niente e chiudeva gli occhi. Perché non bisognava fare niente con Berlusconi? Ma in generale perché era sempre dalla parte dei magistrati. Se Renzi rivoluzionerà la sinistra da questo punto di vista, avremo una sinistra più socialdemocratica e meno giustizialista. Senta, ma nel governo Letta il ministro Nunzia Di Girolamo del suo partito si è dimessa per difendere il suo onore senza aver ricevuto neanche un avviso di garanzia. Lei l'ha difesa poco, è pentito? Ma io non condivido per nulla il suo giudizio. Sono stato accanto a Nunzia durante il dibattito parlamentare e l'abbiamo difesa come un solo uomo tutti insieme perché sapevamo che era dalla parte giusta. Senta, l'accordo Renzi-Berlusconi ha cambiato il clima anche sulla giustizia, secondo lei? Questo lo vedremo a giugno, perché vedremo quale sarà la reazione della magistratura e delle altre forze anche di sinistra di fronte alla nostra proposta di riforma della giustizia. Ieri sul Corriere della Sera l'onorevole Violante ha detto che il punto centrale della riforma della giustizia è la disciplina dei magistrati, cioè chi e come ne giudica la responsabilità. Condivido pienamente, perché se un collega giudica un collega si è sempre meno credibili. Cane non mangia. No, cane. Ma non solo. No. Io aggiungerei che un altro tema è la separazione delle carriere. Mi riferisco non alle carriere tra PM e giudicante, ma tra PM e giornalisti. E per separare queste carriere, una grande separazione. Tra alcuni PM e alcuni giornalisti, è indispensabile approvare una legge sulla privacy che tuteli la divulgazione delle intercettazioni irrilevanti. E la popolarità dei PM? Questo è un effetto connaturato al fatto che nel momento in cui pubblichi le intercettazioni e dici chi fa l'indagine, lo manifesti alla pubblica opinione come il salvatore della patria, ciò certo. Si verifica. Senta, ma per lei Berlusconi è stato un perseguitato da una certa parte della magistratura o no? Certamente. In settimana, cioè oggi, domani, non so quando, si rifaranno i vertici delle grandi aziende di Stato. Lei è per una discontinuità assoluta? Lasciare tutto così com'è non sarebbe coerente con ciò che questo nostro governo ha voluto rappresentare. Sì, quindi sì. Lei ha usato discontinuità. Lei ha usato l'espressione assoluta. Sull'assoluta c'è anche una valutazione di merito e quindi occorrerà anche esprimere dei giudizi. Quindi non è a prescindere dai risultati. Non è a prescindere dai risultati. Ecco. Ma anche qui quote rosa prevalenti oppure no? Ma che ci siano delle donne, noi lo abbiamo voluto scrivere con una legge specificamente approvata dal Parlamento per assicurare che le quote rosa e che la presenza delle donne ci fosse anche nelle aziende pubbliche partecipate. Sì. L'abbiamo scritto nella legge. Alla RAI però è stato confermato il direttore generale Gubitosi, perché è il migliore di tutti. Ma il suo mandato non è scaduto, ha vantato alcuni utili aziendali e il giudizio si esprimerà al momento in cui scade il suo mandato. Senta, onorevole Alfano, le faccio un'ultima domanda. Lei è stato un politico di scuola, comunque di tradizione, di formazione anche democristiana. Cosa le resta di quell'esperienza? Che il canone del buon governante deve essere quello del buon senso. Sono contro gli eccessi, sono contro gli estremismi e penso che il buonsenso sia veramente la categoria dello spirito di chi governa. Ed è la categoria dello spirito della DC? No, è stata di tanti uomini che non hanno ceduto agli eccessi e hanno saputo incarnare nel nostro paese quello spirito del ceto medio di questo grande, grande paese che ha avuto in un'area di milioni di italiani che hanno fatto grande il paese la locomotiva dello sviluppo negli anni più bui della nostra storia. Noi siamo esattamente quelli che vogliono difendere questo pezzo del paese. Mix 24. Allora Mario, il titolo del faccia a faccia con Alfano? Ce l'ho. Lo smagnetizzatore. Ah, bello. Pietrangelo? Il percorso è obbligato e quindi farei così. Il Duracell Berlusconi non dura più. Era chiamata Buccuzza di Ciuri, faceva l'amore, e lo faceva di tutte maniere, del capo da sotto, davanti e terreri, quando scendeva alla stazione, un paesaggio campesino, a sottotunare il nome e carose, cogne romano con neonpartino, ce lo fa perché ci si gira. Questo lunedì partiamo dall'America. Partiamo perché non faccio altro che su e giù con la Sicilia. Lo vedo. E allora balla la luna, Mario Incudine ha creato da uno spartito nobile, qual è Bocca di Rosa, Buccuzza di Ciuri. A balla la luna è una cosa meravigliosa, c'è pure la banda musicale, esalta tutta la settimana e poi soprattutto consente a tutti un augurio di incontrarla questa Buccuzza di Ciuri, che porti la speranza, che porti pure gioia. Un po' di gioia e un po' di guai. Si sa fa gente d'una consiglio, sentendo se comodo, domine Dio, croppo una bucca, vallo corretto. Mario, che cosa bolle in pentola? Molto interessante, sentite qua. Va la bamba. Allora, c'è una miniera in Perù, sì, che si chiama Las Bambas, ecco perché ho evocato, diciamo, questo nome con questa canzone, e un consorzio cinese l'ha appena acquistata dalla Glencore, la miniera, di Las Bambas, prezzo quasi 6 miliardi di dollari. Cosa estraggono? Rame. Il rame serve per tutto. Serve oramai, per tutto. Oramai. Il rame per tutto, proprio... tu sai, no? Nelle cronache normali di lo tutti rubano, i giorni, esatto, i famosi furti di rame, quindi è molto interessante. Siamo? Grande, siamo in Cina. Grande canzone di David Bowie, China Girl, è bellissima, sentite come suona benissimo, senti. Oh, perché? Perché volevo darvi un po' di grandezze cinesi. Noi ragioniamo sul nostro paese, che è un certo, grande paese, indubbiamente. Quello l'Europa. Cinese. La Cina un po' più grande. La Cina un po' più grande. A Pechino stanno lavorando a un progetto di pianificazione urbana, di riunione in una provincia un po' grandetta delle aree di Pechino, Tianjin e parte della provincia di Hebei. Popolazione finale? 100 milioni di persone, quasi due Italie. Salamino. Io ve l'avevo detto, mi prendevate in giro quando, leggendo giovedì notte un tweet di Giuseppe Falci, avevo già catturato la notizia, cioè l'aveva catturata Falci e l'avevo raccontata. Paolo Bonaiuti, il portavoce del Cavaliere, se ne va e va appunto da Alfano. Ce l'ha detto, ce l'ha detto, stesso, ce l'ha ripetuto, ha però detto, ci, sono, brava persona. Ci sono nuovi arrivi, altri lasceranno Forza Italia e se ne andranno. È giusto questa musica, che cosa ci ricorda? Già l'immaginiamo, che camminano come su di un filo per non rinnegare. Però sapete una cosa? Allora, Forte Apache, che è una firma ben informata sul velino, sull'agenzia Il Velino, ha raccontato un fatto particolare, e cioè che si sono incrociati nel transatlantico di Montecitorio un Gianfranco Fini, che era forse andato a ritirare la pensione, non so che cosa, e Paolo Bonaiuti l'ha preso e gli ha instillato il tarlo del rancore, indicando Andrea Ronchi, e all'orecchio gli ha detto: lo vedi quello, io a quello l'ho fatto ministro, a te invece no, mai. Ah no. E quindi non rinnega. Ma la quota rosa oggi non c'è, lunedì dorme. No, c'è. Bye bye, baby. Remember. Ah, Paolo Bonaiuti sarà una nuova giovane risorsa del nuovo centrodestra. Che meraviglia, udite, quante novità! A Bonaiuti, però, siccome è nuovo, no, del partito, bisogna. Gli ricordo due regole d'oro del nuovo centrodestra. La prima, niente mafiosi. La seconda, mi rendo conto, sarà un po' più difficile da rispettare. Niente inutili idioti. Che roba la Tardelli. La Tardelli comincia a pungere. Andiamo avanti con le bolle. Aiuto. Butta fuoco. Diciamo la verità, ci sentiamo quasi a casa, senti. Prova a immaginare ascoltando le note del vero inno, l'inno imperiale. Ma sai, questa roba a me ricorda tanto l'Unione Sovietica, quindi quando si sapeva con chi dovevi stare o non stare. Guarda che Putin ha issato il vessillo con l'aquila bicipite. L'ho visto. Senti. E allora? Vi voglio parlare, caro Giovanni, di una cosa che tu dirai cosa c'entra con l'inno russo. Del palladio. Cosa c'entra? È molto interessante perché è un metallo raro, il suo prezzo è salito ai massimi dagli ultimi due anni ed è tutta colpa della crisi in Ucraina, che tra l'altro in queste ore sta vivendo momenti ancora molto difficili. E non solo gas dunque, ma anche palladio, perché la Russia soddisfa oltre il 40% della domanda mondiale. Il palladio è per chi non lo sapesse, un importante catalizzatore chimico, cioè facilita alcuni processi, viene usato nell'elettronica e nel settore dei gioielli. L'oro bianco, per esempio, si fa col palladio. Da febbraio il prezzo è salito del 16%. Palladio. Cari amici, palladio. Era una bella mora. Celeste Di Porta è un personaggio talmente odiato e talmente simbolico che ovviamente nella popolazione romana ha un fortissimo impatto anche emotivo. No, era una ragazza giovane. Indicava gli ebrei semplicemente salutandoli. Una volta salutato il personaggio, dopo intervenivano i poliziotti che lo catturavano. Io mi ricordo solo che era, se si può dire qualche parolaccia, era una gran socco. Ecco, sono alcuni dei giudizi che descrivono Celeste Di Porta, una ragazza ebrea, bellissima, ambigua, protagonista della storia dell'occupazione nazista a Roma e della storia che ci racconterà Marina Milone nella seconda ora. Ancora un salamino. Salamini promozionali! Ah, le sventure delle librerie, se non ci fosse, come si chiama, Fabio Fazio. Perfino Giorgio Napolitano, per poter promuovere il proprio volume scritto a quattro mani con Federico Rampini, è dovuto andare dove? Alla trasmissione, quella famosa che si chiama Che tempo che fa? Sì. Dove la meteorologia si mischia con tante cose. Però io vi do un'altra notizia. Non è che uno sta con le mani in mano, pur manipolando continuamente nel gesto delle mani che si lavano le altre mani, questa forma, è vero, pilatesca del... Insomma, la notizia qual è? La notizia è che non poteva essere da meno Bruno Vespa, che ha già organizzato una super puntata per presentare, promuovere, invitare, ospitare Giorgio Napolitano. Evviva. E gli ha organizzato un parterre meraviglioso, a dir poco autorevole, perché a discutere con Giorgio Napolitano saranno Paolo Crepè. Mi alzo in piedi. Alba Parietti. Valeria Marini e, ultimo ma non ultimo, tenetevi perché è veramente un ospite importante, Peppe o Beppe che dir si voglia, Severgnini. Oh. Ma non è finita. Vespa, caro Giovanni, ha messo una buona parola. Il Napolitano potrà andare anche da Antonella Clerici alla prova del cuoco. E già Antonella Clerici nello spot ha detto: ce lo chiede l'Europa. Ah, anche l'Europa ci dice, che grazie alla Tardelli i miei giorni sono diventati più belli. Anche i vostri, secondo me, dice un nostro ascoltatore. E se prima volevo Minoli come zio, adesso la Tardelli la vorrei come moglie. È finita. Non si può parlare. Siamo alle proposte ancora di matrimonio. Ancora una bolla? Vi prego, vai. Che bella musica stamattina. Buena Vista Social Club, a L'Avana, il nightclub come modello dell'economia, caro Giovanni e caro Pietrangelo. Si chiama Carabali, è di proprietà di 21 persone, è una cooperativa ed è il modello, pensate, con cui Raul Castro sta provando a riformare l'economia introducendo un po' di capitalismo di tipo cooperativistico. Sono circa 450 le piccole imprese che già si sono trasformate così. Canzoniere. Pupi siamo, lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupo tutti. Dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi così per volontà divina. No, signori! Ognuno poi si fa pupo per conto suo. Quel pupo che può essere o che si crede di essere. 800 24 00 24, il numero verde per indovinare, 349 238 6666, l'SMS dopo la pubblicità. Mix 24. Raffaele da Roma per buongiorno. Il canzoniere, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci dica. Allora, beh, il grande Luigi Pirandello e Beretta Sonagli. Giusto. Raffaele, ma lei che fa? Io sono un impiegato in una società di telecomunicazioni a Roma. E mentre lavora ascolta la trasmissione? Andando in ufficio oggi, il mio cellulare è completamente bloccato. No, io speravo che l'ascoltasse mentre c'era, mentre lavorava. Non è possibile. Mi confonderei perché... Cioè, bisogna prendere delle ferie per ascoltarla, va bene. Grazie, complimenti. Complimenti a voi. Continuate così. Grazie. Altrettanto, professor Simonelli. Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, dove era questo canone benedetto ieri sera? Posso fare una richiesta, perché su questa cosa del canzoniere io chiedo le quote padane degli scrittori. Le abbiamo fatti. Allora, invece il canone, provate un po' a sentire dove le poteva essere padane ieri sera. In Europa. Il canone inevitabilmente era prima di tutto su Rai 3, a che tempo che fa, perché l'intervista di Fazio a Napolitano, in attesa poi che arrivino la Parietti, pubblico, la Clerici e tutti quelli che avete citato, insomma intanto abbiamo cominciato da qui. Certo, per porta a porta deve essere stato duro. No, ma lo fa. Sì, ma dopo? Ma meglio. Ci accontentiamo. Va bene, allora andiamo avanti col canone. Mi sembra insomma che questa intervista fosse un'intervista seria, ben fatta, non noiosa. Si può dire sempre le solite cose che si dicono di Fazio, insomma, che non mette in difficoltà il suo interlocutore. Presidente della Repubblica, Che faceva delle comunicazioni ufficiali. E poi è stato trattato come tutti gli altri scrittori. Questa volta va a vantaggio di Fazio il suo cosiddetto buonismo. Certo. Napolitano non è stato trattato meglio di altri scrittori che hanno scritto altri libri. Ci sono dette cose interessanti sull'Europa e anche cose interessanti sulla biografia di Napolitano. Poi però c'è un'altra cosa, ho tempo di segnalarla? Sì, certo. Perché ieri è successa una cosa, certo, come dice, si parva dicet, non possiamo paragonare un'intervista al Presidente della Repubblica con quest'altra cosa frivola di cui io parlo di cose frivole. C'è stata la staffetta, il cambio di conduzione all'eredità. Ah, si è passati da una ormai quasi secolare conduzione di Carlo Conti alla conduzione di Frizzi. E questa è una novità importante in un game show, perché il conduttore insomma fa molto in questo tipo di ma spettacolo. Fa molto o non fa molto? Perché questa è la domanda. Il format è più forte del conduttore o è più forte il conduttore? Credo che sia una domanda significativa. Questo era proprio il problema, perché il cambio di conduzione di un conduttore che è cresciuto con quel format poteva anche sbilanciare il tutto, perché il format lì è molto importante. Questo è uno dei format migliori che la RAI ha acquistato all'estero in questo assurdo mercato di acquisti di format. Questo è un format che funziona in sé, però lei sa benissimo e tutti sapete benissimo che cambiare il conduttore è come cambiare l'allenatore in una squadra, ecco, no? Uso sempre... Vabbè, adesso vedremo i risultati. Secondo insomma me è andata bene. Lo sapremo tra poco. Grazie professore. Sara Tardelli ha intervistato Antonio Brunetti, sceneggiatore e regista di Crisi Criminale, la web series che al Festival di Los Angeles ha vinto 6 premi per la regia, la sceneggiatura, il miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, eccetera. Antonio Brunetti, lei è lo sceneggiatore e il regista di Crisi Criminale, che è una web fiction. Il protagonista, che è molto particolare, si chiama Tony. Ma chi è Tony? È un criminale comune che è esodato dal settore, nel senso che ormai ha 50 anni e non è riuscito a formarsi su quelle che sono le nuove strade del crimine e quindi in conseguenza della crisi è preso in mezzo. Non è al passo con i tempi. Oltretutto con la crisi quello che lui sapeva fare, cioè i piccoli crimini comuni, furti, rapine, non sono più possibili per due motivi. Il primo è che la gente non ha più nulla, il secondo è che la società civile in qualche modo ha traghettato le attività nelle attività criminali, perché deve in qualche modo rimanere a galla. Quindi è un tipico disoccupato cinquantenne che difficilmente troverà una nuova collocazione professionale. Sì, diciamo che la trova, ma dovrà passare attraverso l'inferno del cambiamento, perché tutte le strade che intraprende fondamentalmente sono chiuse. Brunetti, ma quando ha deciso di misurarsi con questo genere, che è abbastanza nuovo almeno in Italia? Noi abbiamo identificato le web serie come un ambito in cui c'è spazio, perché c'è interesse, sono divertenti da fare e permettono anche una certa libertà creativa e anche tecnica. Qualche giorno fa avete fatto incetta di premi, ben 6, al Festival delle Web Series di Los Angeles. Ma com'è andata a Los Angeles? Che ambiente c'è? Creativo, ma non giovanissimo però. Non è un ambiente per teenager, ecco, mettiamola così. Diciamo che negli Stati Uniti il discorso delle web serie è un discorso che in qualche modo sta già traghettando dal mondo web a invece situazioni più organizzate, per cui per esempio esistono anche rassegne in cui i format presentati per il web in qualche modo aspirano a diventare anche format televisivi. I vostri colleghi, quelli di The Pills, sono arrivati su Italia 1, ma si augura anche lei di arrivare lì oppure oramai pensa solo all'America? Io non nascondo che noi abbiamo scritto strizzando un po' l'occhio alla possibilità televisiva e anche del cinema. Quanto costa una puntata? Ah, allora, per come l'abbiamo fatto noi, pochissimo, perché diciamo che abbiamo, ma poco. Io mi sento di dire che 10 puntate forse si riuscirebbero a fare con, non so, con 5, 6, 7 mila euro a puntata. Ha sentito, professore, un mondo da analizzare. C'è Pietrangelo che vuole fare una domanda, professore. No, professore, una precisazione. Non è che lei mi deve fare litigare con tutto il vicinato di via Cesare Battisti a Padova, con Prato della Valle. Io non faccio altro che sfornare Goldoni, Giuseppe Berto, Guido Piovene. Poi se spunta un Pirandello, Pirandello forse era di Girgenti, ma è Bon. Vabbè, tranquillo. È che forse non ci ascolta il professore a questo sì, punto. Sì, ci ha ascoltato. Oggi raccontiamo la storia di Celeste Di Porto, una ragazza bellissima, ebrea, protagonista di una storia sconvolgente d'amore, di morte, di tradimento durante l'occupazione nazista di Roma. La puntata, naturalmente, come sempre, curata da Marina Milone, realizzata da Alessandro Falcone e Giampiero Palombini.